Vorrei che fossi qui per dirti quelle cose di te che non ho mai capito. Vorrei che fossi qui. Vorrei che fossi qui, perché ci sono giorni vuoti come questo qui. Vorrei che fossi qui. E poi vorrei che fossi tu, sempre tu a tornare indietro, lasciando stare chi non ha mai capito. Il sole ha cancellato tutto quello che c'era tra noi. Non era questo che tu volevi, ma non ci giurerei. Se guardi bene in fondo a te, chissà che cosa troverai. Un bel negozio di sogni, chiuso come gli occhi tuoi. Fossi qui per vedere la faccia che ho dopo tutto, sì, vorrei che fossi qui. Vorrei che fossi qui per non chiedere niente, ma lasciarti parlare. Vorrei che fossi qui. E poi vorrei che fossi tu, sempre tu a restare a sentire come vivo ormai col mio ritardo regolare. Il sole ha cancellato tutto quello che c'era tra noi. Non era questo che tu volevi, ma non ci giurerei. Se guardi bene in fondo a te, chissà che cosa trovi. Yeah.